La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, puntuali come ogni sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui su Radio 24, dalla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi, una settimana con la metà dei film della scorsa, e questo è un bene, e con molti più film interessanti, e questo è ancora più un bene. Quindi diciamo che è una puntata che nasce sotto i migliori auspici, ed effettivamente lo si è recepito subito dalla risultata del botteghino, dai primi giorni del botteghino, dove le novità in sala si sono mosse piuttosto bene. È anche una settimana importante per il cinema italiano, che mette lì un paio di film di grande qualità e soprattutto di grande varietà, che danno una speranza nella capacità del nostro cinema, come dire, appunto, di essere vario, di riuscire ad andare su diverse direzioni, che è un po' quello che tante volte gli si imputa di non saper fare. Però noi vogliamo partire dall'Inghilterra, vogliamo partire da una comicità tipicamente british, da una comicità che parte da un personaggio per bambini, ma non è solo per bambini, perché Paddington, questo orso appunto delle fiabe, di un personaggio letterario, diciamo, della letteratura per bambini inglese, ma diventato già con il primo Paddington grande personaggio cinematografico, raddoppia con Paddington 2. Signor Gruber? Oh, questo cos'è? Quella è Londra. Magnifico. Zia Lucy ha sempre sognato di venire a Londra. Se vedesse questo, sarebbe come se fosse finalmente qui. Zia Lucy! Oh, Paddington. Questo è perfetto. Tutto è cominciato nel 1958 con la pubblicazione del primo A Bear Called Paddington, che ha fatto da capofila, insomma, un successo, come dicevo prima, letterario, e adesso negli ultimi anni anche cinematografico. Qui si raddoppia con la storia di questo orso che deve cercare in qualche modo, vuole fare un regalo alla zia che compie 100 anni, però il regalo che vuole è anche nelle mire di un pericoloso ladro, e quindi parte tutta la storia. Una storia che, come dicevo, ha una particolarità rispetto a tanti altri film per bambini. Qui non siamo in un film d'animazione, ma siamo in un film live action con personaggi animati al computer, come appunto l'orso, come potrete immaginare, ma che Paul King riesce a tenere come un film al quale non manca mai la qualità cinematografica. E questa forse è la grande caratteristica di questo Paddington, che riesce a mettere insieme, anche già in fase di scrittura, di sceneggiatura, trame credibili, divertenti, umoristiche, intelligenti. Ecco, un film intelligente. Era tanto che non lo dicevamo questo. Sentiamo se è d'accordo anche Boris Sollazzo. Ciao Boris. Nonostante io non sia intelligente come il film, sono d'accordissimo, anche perché rispetto al primo, che aveva una pista narrativo-emotiva molto forte, no? Quella di essere una sorta di collante in una famiglia sfilacciata, quindi c'era inevitabilmente anche l'aspetto più empatico, quello che ti porta, insomma, a ragionare anche di cuore nella visione. Qui siamo in presenza invece di una storia cinematografica tout court, un racconto dove l'aspetto emotivo è meno forte. Sì, c'è un regalo da fare a una persona a cui tieni, però è una storia più normale, meno potente a livello anche di possibili commozioni, possibili sofferenze, dolori, immedesimazioni, per quanto ci si possa immedesimare in un orso, ovviamente. E questo, secondo me, rende lo sforzo registico di un sequel molto più interessante e, come dicevi tu, ed è una parola assolutamente centrale, intelligente, e anche a livello visivo molto più particolare, molto più ricercato. E la forza di Paddington 2 sta proprio qui, nel fatto che quest'orso diventa un personaggio a tutto tondo. Lo sforzo della regia è uno sforzo creativo, è uno sforzo anche nei colori, nella fotografia, molto più particolare, e questo rende il film più interessante, più adulto e anche più divertente, secondo me, a livello di scrittura. Quindi assolutamente da promuovere, forse anche rispetto al primo, soprattutto a livello critico cinematografico. Questo libro dove diamine l'hai trovato? Al negozio di antichità del signor Gruber. Fermati, ladro! Resta fermo dove sei! Ma non sono io il ladro! Cose misteriose accadono in tutta la città. Siamo di nuovo ricchi. Sembrerò un criminale incallito, ma sono innocente. La verità è che a me Boris Sollazzo è piaciuto Paddington perché lui è Paddington e io Paddington 2, quindi effettivamente abbiamo un po' questa morfologia dell'orso. Tra l'altro ricordiamo sempre che questo film, il primo, è stato campione di incassi in Inghilterra e anche candidato a due premi BAFTA, che sono gli Oscar inglesi. Insomma, questo sempre per sottolineare che si va a un intrattenimento sicuramente di famiglie con grande, grande gusto. Allora, Paddington 2 è il film con il quale abbiamo iniziato e adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade. Fra poco ci caliamo già nella prima situazione di cinema italiano. Addio fottuti musi verdi. Il cinema italiano ritrova la fantascienza, ma col sorriso, fra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Assenti, ma a loro modo presenti, impegnatissimi, ma che poi si impegnano ad esserci. Attenti, ma tanto distratti, volenterosi, ma un po' impacciati, autorevoli, ma anche giocherelloni. Federico, guarda che c'è una parola che riassume tutto questo. È padri. Ed è proprio di padri e ai padri che parleremo, per dare qualità al tempo passato con i figli, quindi anche al nostro. Padri casalinghi e padri incasinati, padri modello e padri single, padri separati, padri indaffarati, padri in pace con loro stessi, perché non ci sono né padri perfetti e né padri imperfetti. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. La domenica alle 11 su Radio 24. Matteo, e le mamme? Beh, per fortuna che ci sono. La Rosa Purpurea. Torniamo insieme. La Rosa Purpurea, come abbiamo annunciato, cinema italiano che ritrova clima da fantascienza con Addio Fottuti Musi Verdi, che nel suo acronimo fa AFMV, che è un po' è diventato un logo, un simbolo di questo film. Un film che ha una firma che chi insomma smanetta su internet e soprattutto su YouTube conosce da tempo, quella dei Jekyll. Potremmo chiamarlo un gruppo di simpatici guasconi comici, ma che va appunto a cercare le atmosfere dell'invasione aliena per raccontare la storia invece di un eterno precariato che è molto molto terreno. Lui è Pietro Felacone. Questa è la 15ª proposta che gli porto. E cresta cosa? Una fava in da una roulotte. E spiriguacci ne pulim ti do! Lui invece è Gennaro Felacone. Non so voi, ma io non capisco mai che cosa dice. Attenti come la vici che sento mangiato! Di solito io non capisco cosa dice. Oh! E il pisellino, sai che so! Senta, io non c'ho un metro, no! Ho provato a renderla un po' più godibile, in modo tale che anche chi non capisce la stilizzazione possa avere davanti un po'. Non mi piace. Insomma, non mi piace. Questo povero grafico napoletano super qualificato, ma che non riesce proprio a sfondare di fronte all'ignoranza del suo datore di lavoro, insomma, si rifugia, diciamo così, o quantomeno trova sfogo in una situazione di abduction, come direbbero gli esperti, cioè viene proprio rapito dagli alieni. Sei qui per un colloquio di lavoro? Sono stato rapito dagli alieni! Facci il caffè per tutti e tre! Boris, i Jekyll sono un gruppo, come dicevo, comico, abituato ai tempi brevi di YouTube, di internet, ai pochi minuti nei quali esprimersi. Qui invece non solo scelgono di sfondare questa parete temporale con un film che dura un'ora e mezza come da copione, ma anche di sposare un genere, quello della fantascienza, che è particolarmente difficile e particolarmente rischioso. Con quali risultati secondo te? Beh, lasciatemi dire, evviva chi lascia un porto sicuro come quello del web dei The Jekyll, in cui hanno un successo clamoroso, per andare a cercare un linguaggio cinematografico alto. Cioè, qui non siamo alto e altro, qui non siamo dalle parti del film dei The Pills, che provano a portare al cinema quello che facevano sul web. Qui stiamo davanti a un collettivo, perché non scordiamocelo mai, lavorano decine di persone con i The Jekyll su vari campi, che è quello della pubblicità, quello appunto del racconto breve, anche quello però della tecnica visiva. Molti degli effetti speciali nascono dal lavoro di questi anni dei The Jekyll, altamente professionale, e decidono di fare cinema, e questo inizialmente potrebbe deludere qualche spettatore, perché chiaramente non si ritroveranno le gag, le parodie, non si troveranno quei racconti brevi, fulminanti, divertentissimi, ma si troveranno un film vero e proprio. E proprio per affrontare un linguaggio diverso, loro decidono di fare qualcosa che se non forse con Lost in Google, uno dei loro primi successi, non avevano mai provato, ovvero la fantascienza con tanto di effetti speciali di alto profilo. La scommessa secondo me è vinta, però è una scommessa che devono fare anche gli spettatori, cioè non devono pigramente andarsi a cercare De Jekyll, cercare solo quel tipo di comicità, ma pensare che siamo dalle parti di una serie di cinematografari bravi che in uno stesso film possono mettere appunto i protagonisti di Gomorra che hanno incontrato anche nel loro lavoro precedente e citare Natale in casa Cupiello, citare gran parte dei film americani degli anni 80 e 90 e la fantascienza di un certo tipo, citare Bruce Willis, cioè avere comunque un'alfabetizzazione cinematografica interessante, sempre poi improntata alla comicità, soprattutto nella seconda parte si ride e si ride tanto perché chiaramente si viene a costruire una situazione che però è completamente inversa rispetto a quella che noi conosciamo. Potranno fare ancora meglio, secondo me, di sicuro avranno la possibilità di andare al cinema e raccontare la propria poetica ancora meglio, ma è un film davvero interessante e secondo me un pubblico che vuole qualcosa di completamente diverso, citando i Monty Python, deve andare a vedere Addio fottuti musi verdi, perché è il cinema italiano che speriamo, no? Quello dei Gig Robot, quello appunto dei fottuti mesi verdi, quello di cui parleremo anche con The Place, cioè un cinema che si prende dei rischi e secondo me fa bene a prenderseli. E allora adesso andiamo ad ascoltare alcune delle dichiarazioni che il clan variegato, appunto, che parte dal regista Francesco e basta e poi, come dire, sposa Francesco Capaldo, i Jackal eccetera, andiamo a sentire le dichiarazioni appunto rilasciate al nostro Boris Sollazzo. Noi volevamo fare una cosa fantascientifica, quindi era proprio l'idea per noi più normale del mondo in realtà. Il rinculo in questo caso è arrivato dopo, nel senso che eravamo tutti molto contenti di fare questa storia, poi l'abbiamo presentata ai produttori accanto ad altre opzioni molto più semplici e l'abbiamo presentata anche un po' pensando, vabbè, tanto non la sceglieranno mai, cioè chi è il pazzo che fa una cosa del genere, quindi abbiamo questa qui e poi abbiamo una commedia semplice, una commedia un po' leggera romantica e hanno scelto la fantascienza, quindi il rinculo è arrivato quando siamo usciti dalla riunione, abbiamo detto porca miseria, ma che cazzo facciamo, quindi là ci siamo un po' pentiti, però in realtà eravamo tutti quanti abbastanza gasati dall'idea, già il soggetto eravamo super, super carichi perché inconsapevolmente speravamo che non si facesse mai. Poi la storia di base comunque si prestava molto, quindi seguendo anche il nostro linguaggio di raccontare un problema attuale come la problematica del lavoro con estremizzandolo fino a portare la ricerca del lavoro nello spazio e quindi a una situazione dagli alieni. So che è la domanda più banale, però Gigi D'Alessio, cioè ragazzi, geniale. Abbiamo scoperto un grande professionista, un grandissimo attore, tant'è vero che alla fine del set io stesso mi ci sono avvicinato e gli ho chiesto scusa perché avevo dei preconcetti troppo grandi nei suoi confronti e lui mi ha detto non ti preoccupare, ti perdono. Lui ha detto ragazzi, c'è la soluzione, cioè la soluzione di Gigi D'Alessio, quindi proprio la sua frase è stata ragazzi voi siete miei fan ma non lo sapete ancora. Sono tutti i miei fan, solo che tutti non lo sanno. Una sorta di nirvana. Sì, sì, è una sorta di cose di livello che devi, devi sbloccare, sì, interiormente. E poi sì, è una patch che devi sbloccare. Il nostro Siddhartha, se così vogliamo. C'è una soddisfazione incredibile di aver portato Gigi D'Alessio nella filmografia, nella sua pagina Wikipedia. Avrà Anna Re, Cientan e Addio fottuti musi verdi, che secondo me è, cioè, vale la pena di qualunque botteghino. Il suo terzo film l'ha fatto con noi, incredibile. E questi allora erano i Jekyll con Addio fottuti musi verdi. Noi giochiamo insieme invece perché abbiamo una bellissima, bellissima edizione di questo film misterioso di oggi da regalarvi. Ascoltiamo. Bambini, per favore silenzio, un po' d'attenzione. Fra poco arriverà l'ispettore da Roma. Dirà delle cose molto importanti sulla nostra bellissima patria. Direttrice, è arrivato l'ispettore. Come? È già arrivato. C'è un ispettore che arriva, in una scuola, avete sentito? Se avete già riconosciuto il film, scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it con il vostro nome, cognome e indirizzo, mi raccomando, e ovviamente il titolo del film giusto, per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di cui faremo ascoltare un'altra traccia fra qualche minuto. Boris Sollazzo, dimmi un po' se tu a tennis tenevi più a Borg o a McEnroe. Beh, McEnroe, caratterialmente non posso che amare di più McEnroe, essendo io un pazzo che contesta qualsiasi cosa. Ah beh, certo, ho fatto una domanda effettivamente retorica. Ero più un borghiano, ero più, come dire, affascinato da questa specie di Thor sceso sulla terra che anziché il martello brandiva la racchetta col rovescio a due mani. Ascoltiamo la clip. McEnroe ha più talento, ma giocare contro Borg è come farsi prendere a martellate. Che cosa vuoi dal tennis? Essere il migliore. Il migliore in Svezia? No, nel mondo. Come risponde all'affermazione di McEnroe secondo la quale Borg, la macchina, prima o poi dovrà rompersi? Non sono diverso dagli altri, non sono una macchina. Che ne sapete voi di cosa significa giocare a tennis? Però la gente... Quando sono in campo do tutto me stesso. Tutto quello che ho dentro di me resta su quel maledetto campo. Ma non potete capirlo perché voi non giocate. La storia di una partita, la storia di una rivalità, la storia di un duello non solo tennistico, né forse neanche non solo sportivo, che ha marchiato a fuoco l'inizio degli anni Ottanta, quello appunto fra Borg e McEnroe, e il film ripercorre i mesi che precedono quella finale di Wimbledon che diede a Borg l'ingresso nella leggenda vera e propria, il suo quinto titolo consecutivo, un tennista clamoroso, chi l'ha visto giocare se lo ricorda, che poi a 26 anni si ritirò. Questo film ci ricorda che il tennis è ritornato ad essere, anzi forse per la prima volta in maniera così copiosa, così in pochi mesi, dopo la battaglia dei sessi, un tema cinematografico forte, caldo, e questa vicinanza fra i due film ci ricorda, ci permette anche di fare delle analogie, se ci sono, e soprattutto di rilevare le differenze. Boris, io devo dire che ho amato di più questo film, ho amato di più Borg McEnroe, ho trovato la regia un po' più asciutta, ho trovato interessante lo scavo dei personaggi, ho trovato clamorose le analogie fisiche, non tanto di Shia LaBeouf con John McEnroe, ma quanto del diciamo dell'attore svedese che interpreta appunto Borg, che è praticamente una goccia d'acqua, Sverrir Gudnason, con Stellan Skarsgård invece che fa l'allenatore di Björn Borg, e ho trovato che proprio nell'essere un po' meno didascalico, un po' più dentro i personaggi, Borg McEnroe vinca la partita. Vince la partita sicuramente con la battaglia dei sessi, sono pienamente d'accordo, anche perché non racconta una storia, ma racconta gli uomini in qualche maniera, e i film sportivi hanno bisogno di questo, cioè hanno bisogno di uscire dal campo, hanno bisogno di uscire dagli schemi e dalle linee di fondo campo per andare altrove, quindi su questo sono pienamente d'accordo, e sono d'accordo sul fatto che forse qui il personaggio che fa scattare qualcosa è quello di Björn Borg, anche perché l'analogia fisica è davvero sconvolgente. Il film secondo me è allo stesso tempo un ottimo film tecnicamente parlando, e anche a livello di scrittura a me ha ricordato molto Rush, e allo stesso tempo però è anche un po' un'occasione mancata, perché forse si poteva rischiare ancora di più per due motivi: uno, perché c'è sempre il solito problema, raccontare lo sport mostrandolo è la cosa più difficile che possa accadere in una sala cinematografica e con una macchina da presa. E poi perché erano talmente tanto un'occasione straordinaria questi due personaggi, queste due personalità, che si doveva stare più fuori dal campo e bisognava analizzarli più approfonditamente, bisognava soffrire dentro di loro, invece si rimane un po' all'esterno, si rimane sotto il profilo estetico, si cerca più l'espressione di Borg e la follia di McEnroe esterna più che quella interna. E detto questo, comunque, per gli appassionati di sport e delle grandi rivalità va bene, da appassionato di tennis dico che racchiudere la rivalità Borg-McEnroe in un'unica finale di Wimbledon è un po' un delitto. A questo punto noi però diamo la linea alla regia, fra poco torniamo e arriva il momento di parlare dell'altro film italiano, The Place, e vi assicuro che è un film da seguire con grande attenzione. Fra poco. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I campioni dello sport, le loro imprese, le loro storie, i loro segreti. Scopriteli a Olimpia, la città dello sport, quest'anno con un ospite d'eccezione. Sono Stefano Tirelli, seguiteci qui a Olimpia, alla scoperta delle menti dei campioni. Sono Dario Ricci, vi aspetta Olimpia, miti e verità dello sport, ogni domenica alle 21, qui su Radio 24. La rosa purpurea. Sunny, mi hanno detto che lei aiuta la gente ad ottenere quello che vuole. Diciamo che offro delle possibilità. Voglio essere più bella. Io voglio che mio marito torni a casa. Una notte intera con lei. Io le darò un compito e se lo porterà a termine avrà quello che ha chiesto. Mi dica cosa devo fare. Più una cosa del genere non la farò mai. I desideri delle persone sono il movimento, il motore della vita umana, e c'è un posto, the place appunto, nel quale questi desideri possono diventare realtà. Possono diventare realtà, ma hanno un prezzo spesso assai caro, un prezzo spesso odioso, addirittura, che però le persone sono disposte a pagare, perché, come dice spesso Valerio Mastandrea, durante il film voi non siete qui per me, siete qui per voi, lo state facendo per voi. Ecco, è questo mettersi di fronte a uno schermo, a uno specchio, nel quale però si vede oltre il vetro, si vede una sorta di radiografia della nostra anima, il centro di The Place, di Paolo Genovese, che è in collegamento con noi. Ciao Paolo! Ciao, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui alla Rosa Purpurea. È una serie americana alle spalle, The Booth at the End, neanche recentissima, tra l'altro, di 6-7 anni fa, se non ricordo male. E poi l'idea di farne un film, dal quale, secondo me, lo dico subito, dovrebbe scaturire una nuova serie, però italiana, con questa location, questo bar bellissimo che sta su un angolo con questa luce al neon che lo illumina, e questo posto sempre occupato da Valerio Mastandrea, che lì con la sua agenda nera raccoglie programmaticamente desideri delle persone e poi dà compiti da fare. Ecco, la prima cosa che ti chiedo è questa. Paolo, intanto l'idea, certo, cinematograficamente è nata di lì, però si è di fronte a qualcosa che potrebbe durare anche 5 ore, 6 ore, una vita, ma potrebbe anche durare di meno. E allora come si fa a organizzare i materiali umani e cinematografici in un progetto del genere? Ma sai, quello che mi è colpito era l'idea, cosa siamo disposti a fare, cosa, fino a dove siamo disposti a spingerci se le condizioni ci troviamo di fronte a determinate condizioni. Quindi poi a quel punto individui le storie, individui il cuore di queste storie, quello che ti interessa, e riesci a organizzarlo narrativamente in un'ora e mezzo. Penso che l'anima di questa idea, lo spunto di riflessione, sia assolutamente sufficiente per un film. Poi ovviamente la serialità ci porta ad approfondire di più questi personaggi, ma a me in questo caso mi interessava proprio questa tematica, la nostra parte scura, i nostri demoni, l'anima nera che abbiamo dentro di noi, no? C'è una frase di Giulia Lazzarini nel film che dice: c'è qualcosa di terribile dentro ognuno di noi, e chi non è disposto e chi non è costretto a scoprirlo è molto fortunato. E ho pensato che è terribilmente vera questa cosa. Magari siamo retti, non facciamo del male a nessuno, ma perché le condizioni della vita non ci hanno mai messo in condizione di far male a qualcuno. E se ci capitasse, e se a un bivio a un certo punto dovessimo scegliere, la nostra moralità come cambierebbe? Questo è il motivo per cui ho fatto questo film, questa tematica, e quindi penso che il racconto cinematografico era sufficiente per narrare. Ecco, hai un cast che è straordinario proprio per varietà e mette insieme il meglio, cioè se lo leggiamo: Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alvaro Orvacher, Vittoria Puccini, Rocco Papaleo, Silvio Muccino, Silvia D'Amico, Vinicio Marchioni, Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli, Giulia Lazzarini. L'ho detto tutto perché è una formazione di calcio, cioè questo è un film di squadra. Certo, c'è Valerio dietro quel tavolo, ma poi ci sono tutti quelli che gli si pongono di fronte, che tornano, ritornano, cambiano nel corso del film. Come hai scelto questo cast? Quanto è stato difficile andare a come dire, cesellare le scelte sui personaggi? Beh, è un film tutto di recitazione, insomma, sono veramente onorato, si dice sempre, ma insomma in questo caso in particolare, perché ho avuto comunque 11 tra i migliori attori italiani, quindi chiaramente sulle capacità recitative era fondamentale avere attori che riuscissero a ridare anima a questi personaggi, che erano molto diversi, complessi e contorti. Un film sulla recitazione, questo qua. E metterli insieme, devo dire, è stata la cosa più semplice. È stato alla fine nasce un po' come quasi un piccolo film, nel senso un film fatto tra amici. Ci siamo visti, gli ho raccontato l'idea, e hanno accettato tutti sugli un'idea senza leggere la sceneggiatura, ed è stato il primo momento in cui ho pensato che forse in effetti questa era un'idea che, oltre che a me, potesse veramente piacere, potesse stuzzicare. È difficile, poi sono tutti attori che fanno scelte molto particolari, film molto importanti, e tutti e 11 mi hanno detto: figo, ci sono, lo faccio, ci sono, lo faccio. Questo è stato molto stimolante nella scrittura e gratificante per me. Perché chiedi cose così orrende tu? Perché c'è chi è disposto a farle. Voglio i dettagli. Abbiamo fatto l'amore. Pensi di rinunciare? Ho avuto un'idea. Chi sei tu? Per me lei è una specie di psicologo. Come faccio a sapere che lei non è il diavolo? Non lo può sapere. Dammi un'altra possibilità. Era questa la tua possibilità. Io ho così ammazzato una persona per te. L'hai fatto per te. Ricordatelo sempre. Paolo, secondo me questa clip ci dice molto anche di un'ulteriore difficoltà. Cioè, tu ti sei messo all'interno di un film in cui nulla viene mostrato e tutto viene raccontato, e in fondo forse per un regista potrebbe essere la cosa più castrante, e hai reagito con una regia essenziale ma molto creativa anche a livello di fotografia, di un modo di cesellare l'immagine molto particolare anche attraverso le inquadrature. Quella di metterti in una gabbia è stata forse la sfida vincente per te come regista a livello visivo? Beh, insomma, registicamente è un film molto molto complicato, uno dei più complicati che ho fatto, perché ovviamente non è un film di effetti speciali, quindi può sembrare che la regia sia un po' in disparte. Non è così, perché comunque la regia non è soltanto la scelta dell'inquadratura, no? Ma dare veramente un contenitore funzionale per poter raccontare questa storia, e questa è una storia difficilissima registicamente parlando da raccontare, perché non ci sono riferimenti, non ci sono scene staccate una dall'altro, è un unico grande fluire di racconti e di sensazioni uno dentro l'altro, al quale devi tu in qualche modo dare ritmo, dare interesse, non far cadere mai la tensione. Hai pochi, è come quando cucini con pochi ingredienti, hai una location e degli attori, punto. Non hai panorami, effetti speciali, musica, cambi scene, nuovi personaggi, hai quei pochi ingredienti e con quelli devi riuscire a portare a termine la storia. Quindi insomma, tecnicamente è stato uno dei film più difficili che ho fatto, però devo dire che la narrazione dei personaggi, io ne sono molto felice, perché sono dei personaggi completamente diversi gli uni dagli altri, e ognuno porta un tema, non senza spoilerare, ma insomma c'è un padre che sta cercando di salvare il figlio malato di tumore, c'è una suora che ha perso la fede in Dio, c'è un figlio che non vuole più vedere un genitore, ci sono delle tematiche così forti che questo ovviamente aiutano a tenere viva la tensione. Paolo, un'altra curiosità, il tuo rapporto con la cultura americana, perché due cose che mi hanno colpito nel film esteticamente, visivamente, questa location mi ricorda tanto Edward Hopper, no? Quei suoi non luoghi tipicamente dipinti dal grande pittore americano, e poi registicamente mi è venuto in mente qualche lavoro di Altman, cioè la coralità degli attori del racconto della storia e il regista al servizio di questa coralità e tenere l'ingrediente, i dentro e i fuori di questa squadra, come l'abbiamo chiamata prima. Qual è il tuo rapporto con questo tipo di cultura americana? Vabbè, insomma, io mi nutro come un po' tutti noi di cultura americana, soprattutto cinematografica. Hai citato uno dei miei registi preferiti, Altman, quindi insomma, non posso esserne fiero. Per me The Player, i protagonisti, è uno dei più bei film che sono stati fatti sul mondo del cinema americano, e il suo modo di raccontare e dirigere gli attori per me è un punto di riferimento. Hopper, ovviamente il riferimento è abbastanza evidente in questo film, nel suo famoso dipinto col bar con gli sgabelli eccetera, e però insomma lì grosso applauso al mio direttore della fotografia, perché una cosa è dire mi piacerebbe fare una cosa che ha il sapore delle opere di Hopper, poi una cosa altro è realizzarlo. Questo bar, The Place, potrebbe essere un posto americano, ma potrebbe essere un posto europeo, deve essere un posto qualunque. Volevo dare, no, a questo film un po' una trasversalità, non un senso di identificazione romana o italiana, strizza l'occhio un po' a qualunque cultura, è veramente un posto che potresti trovare ovunque, non a caso è in Italia, è a Roma, ma non sembra un posto italiano. E allora, Boris, sei ancora in collegamento con noi, hai un'ultimissima domanda da fare per caso a Paolo? Sì, assolutamente. È la scelta degli attori. Lui ha parlato appunto della loro bravura, però è una scelta assolutamente non banale e tra l'altro molto variegata, cioè non c'è quel solito blocco corale di attori che stanno bene tra loro, molti non hanno mai lavorato insieme e sono tanti e sembrano perfetti ognuno per il loro ruolo. Mi farebbe piacere che lui raccontasse un po' come è avvenuta questa scelta, perché sembra un po' fuori norma, ecco. Penso da Giulia Lazzarini a Marco Giallini non ce li saremmo mai aspettati insieme nello stesso film. De Blaise si raccontano storie per definizione, e pulsioni e demoni e anime completamente diverse, quindi mi piaceva anche nella scelta proprio del cast avere anime completamente diverse per provenienza, per cultura, per tipologie di personaggi interpretati, no? In modo tale da avere lo stimolo poi di amalgamarli insieme in un'unica storia. Il fatto di mettere insieme appunto, ecco, da Giulia Lazzarini a Sabrina Ferilli, che è un altro tipo di iter, con Silvio Muccino e penso che molti di Valerio Mastandrea, con cui è Marco Giallino, con cui ho già lavorato, però insomma dalla differenza secondo me è venuta fuori una grande ricchezza, soprattutto vedere insieme attori che non avevamo mai lavorato insieme. Questo è molto curioso. E allora, Paolo Genovese, grazie per essere stato con noi alla Rosa Purpurea. The Place è nei cinema italiani ed è partito anche piuttosto bene al botteghino, e insomma in bocca al lupo per questa nuova avventura e ci risentiamo più avanti. Grazie e buona giornata. The Place, il nostro film della settimana, l'avrete capito anche insomma dallo spazio e dal calore con il quale lo abbiamo accolto. Adesso una nuova traccia del film misterioso di oggi. Andate via. Vai via, cane, vai via. Via, cane. Vai via. E allora, via cane, un latrare di cani, avete capito, avete indovinato di che film si tratta? Allora scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, c'è un Blu-ray, Blu-ray che vi aspettano in un'edizione davvero nuova e stupenda di questo film che sveleremo fra pochi minuti. Adesso, linea alla viabilità, fra poco ci sentiamo insieme con l'ultima proposta di questa settimana, un'altra proposta molto importante perché il film che ha vinto la Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes intitola The Square. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La Rosa Purpurea. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi l'artista e sociologa argentina Lola Arias e la sua opera The Square. Per poter accedere a questa esposizione dovete riflettere e decidere A, se vi fidate delle altre persone, oppure B, se non vi fidate delle altre persone. Il quadrato è un santuario di fiducia e amore, al cui interno abbiamo tutti gli stessi diritti e doveri. E insomma, avete capito che è un altro esperimento sociologico abbastanza interessante, quello di The Square, il film di Ruben Östlund, che ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes lo scorso mese di maggio e adesso arriva nei cinema italiani. La storia di una mostra, appunto, che viene allestita dentro un grande museo di Stoccolma, del quale il protagonista Christian è il curatore, si intitola The Square, appunto, e non è altro che uno spazio nel quale bisogna entrare con un atteggiamento diverso, un atteggiamento positivo, un atteggiamento di fiducia verso il prossimo, e devi capire se sei dentro o fuori da questo che è semplicemente un quadrato. Ma presto capiamo che questo è un pretesto per il regista per raccontare invece qualcosa di più, qualcosa che riguarda cosa sono l'altruismo e la condivisione, cosa sono l'io e gli altri all'interno della nostra società, della società occidentale, di una società occidentale che è quella del Nord Europa, che è ancora più, come dire, ipoteticamente sviluppata e a un punto più avanzato, ma che, come scopriremo nella denuncia di Ruben Östlund, lo è assai meno di quello che ci si aspettava. Tutto questo con uno stile veramente freddo, una fotografia pallida, inquadrature fisse, che però esaltano alcuni momenti di movimento del film, alcune azioni che nel film si svolgono. È un film che sottrae, e questo fa esplodere di più i momenti che appunto hanno un vigore maggiore, e soprattutto un film che grazie a questa pacatezza, diciamo così, di regia, poi regala un paio di momenti che, a mio modo di vedere, entreranno dritti dritti nell'immaginario quantomeno di chi lo andrà a vedere. E parlo, Boris, soprattutto della scena, ovviamente, dell'uomo scimmia all'interno di questa festa, di questa cena, seduta, paludatissima, di questo personaggio che spaventa tutti, perché è in fondo quello che c'è dentro l'anima di ognuno di noi. E qui ci ricolleghiamo anche a quello che diceva Paolo Genovese con The Place, e che a un certo punto esce fuori quando noi magari non ci aspettiamo, oppure ci aspettiamo di poterlo domare. Ecco, è l'entrare dentro e fuori dall'io un pochino il centro di questo film. Beh, è una palma d'oro che ha ragione di essere una palma d'oro, mette insieme Ferreri e Bergman, secondo me, a livello concettuale, visivo e narrativo. Se con The Place si ragionava su un luogo e su un ruolo e ci si chiedeva se cosa siamo disposti a fare per ottenere ciò che vogliamo, qui ci chiediamo cosa siamo disposti a fare per ottenere ciò che riteniamo giusto. E quando diciamo qualcosa di giusto, non legale, ma profondamente giusto, eticamente giusto, cioè di ottenere quello che si considera un proprio diritto. È una storia estremamente semplice, perché parte da due presupposti: uno puramente teorico, cioè un direttore di un museo che crede di avere anche un ruolo politico e quindi utilizza l'arte moderna e fa una riflessione profonda sull'arte moderna come portatrice di valori, e dall'altra parte la messa in atto, la messa in discussione di questi stessi valori nella vita quotidiana che nasce da uno scippo, e che cosa si è disposti a fare per rientrare in possesso di ciò che ti è stato tolto. All'inizio si pensa che siano i propri documenti e il proprio portafoglio, alla fine probabilmente sarà addirittura la tua anima. The Square è uno di quei film che definisci capolavoro, nel senso che è un lavoro che mette a punto e a capo un genere e una visione. E Östlund ha questa capacità incredibile, come dicevi tu, di mantenere una freddezza a livello visivo che non è per nulla priva di calore, però, perché lo riempie di contenuti, lo riempie di immagini. La scena che dicevi tu dell'uomo scimmia, che non vogliamo anticipare né nella sua evoluzione né nel suo racconto, ma che è potentissima nel scoperchiare, nel scoprire le nostre ipocrisie, e le ipocrisie soprattutto di una certa classe sociale e di un certo modo di pensare, benestante e ben pensante, e allo stesso tempo è anche una riflessione profonda su determinati valori estetici ed etici. Questa è la forza incredibile di The Square, perché mette in discussione anche un contesto sociale, mette in discorso anche un contesto creativo, mette in discussione ciò che siamo e ciò che pensiamo di essere, e in questo senso anche il protagonista è bravissimo, perché senza andare mai sopra le righe, sostanzialmente sta sempre sopra le righe. Lo fa grazie al suo talento, grazie alla scrittura del suo ruolo e anche grazie a un'evoluzione narrativa che non si nega una conclusione, cioè non lascia un finale aperto, ed era forse la cosa più difficile, ma porta alle estreme conseguenze quello che noi vediamo. E questo è fondamentale, perché in qualche modo il regista si prende una responsabilità anche nei confronti dello spettatore e della storia che racconta. The Square e The Place sono le magie, no, della distribuzione italiana. Questi film sono stati fatti in contesti diversi, in momenti diversi, e però sono proprio due bei film da vedere in questo fine settimana, perché probabilmente nel vostro piccolo uscirete, se li vedrete entrambi, magari a stretto giro di posta, uscirete un po' cambiati, uscirete con delle riflessioni in testa che vi faranno ragionare per giorni e giorni e giorni. E allora, questo è un risultato, è il risultato forse maggiore che può ottenere il cinema. Boris, è stata una bella settimana, grazie per essere stato con noi, siamo contenti quando quello che diciamo ai nostri ascoltatori ci viene veramente, come dire, da dentro, dal cuore, e sappiamo che abbiamo dato consigli che avranno un loro seguito. Grazie ancora, ci sentiamo fra 7 giorni. Alla prossima settimana e buon cinema. E buon cinema a tutti. E per proseguire la visione e per portarla nel nostro ambiente domestico, noi ascoltiamo la clip con la quale avevamo giocato 7 giorni fa. Un tempo volevo salvare il mondo. È un posto di magia e meraviglia, ma più ci si avvicina, più si vede la grande oscurità che cova al suo interno. E allora, si trattava di Wonder Woman, e i nostri ascoltatori più veloci e più bravi sono stati Glauco Bortolussi di Milano e Cesare Dragoni di Cogoleto, provincia di Genova, saranno loro a ricevere a casa il Blu-ray di Wonder Woman che ci facciamo raccontare dagli amici di Film TV. È con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, è un DC Comics decisamente meno incazzoso e cupo di precedenti ed è considerato in America uno dei migliori film tratto da Albia Fumetto e Cinecomics, sebbene poi nel resto del mondo la critica l'abbia trattato abbastanza aspramente. Un gran successo al botteghino e tutta una serie di querelle sul fantafilm al femminile, femminista, adeguato o meno che sia. Esce appunto in DVD e Blu-ray in versione da uno o due dischi con tantissimi contenuti extra tra cui spiluccare. Si parte dal focus sulla grande guerriera della DC Comics fino a un viaggio esclusivo nei momenti salienti di Wonder Woman, appunto guidati dalla regista, l'esplorazione della leggenda di Wonder Woman fatta dalla regista e dai creatori dei fumetti, insomma tantissime cose negli extra, da cui anche tante scene tagliate. E allora, questo era il nostro game della scorsa settimana. Poco fa, recensendo The Square, il Palma d'Oro al Festival di Cannes, Boris Sollazzo ha detto un misto fra Bergman e Marco Ferreri. E allora noi abbiamo voluto scegliere due film di Marco Ferreri che arrivano sui piccoli schermi d'Italia, tutti in una notte, su Rai 3, domenica 12 novembre. Prima l'udienza e poi la cagna, perché sono due film assolutamente da vedere o sicuramente da riscoprire. Sì. Storia di Amedeo che vuole essere ricevuto in udienza dal Papa, ma lo fa in vano. Ferreri non ci dice nemmeno di cosa vuole discutere. Moravia scrisse che, giudicando dall'aspetto piccolo borghese del protagonista, ciò che vorrebbe dire al Papa non potrebbe che essere una cosa cervellotica e insignificante, o quello che la Mastra, di cui è un perfetto rappresentante, direbbe al pontefice se potesse avvicinarlo. Quello che comunque è chiaro in questa sorta di versione del castello di Kafka, ridotta commedia di costume, è che a Ferreri interessa su tutto il matrimonio tra il mistero della religione e invece la prassi intimidatoria, lercia, melliflua e viscida del potere. Un film di nichilismo cupo, triviale, assolutamente grottesco, ridente. Mentre il secondo film, La Cagna, è la storia di un pittore che vive isolato dal mondo su di un'isola, e entra nella sua vita una donna, fuggita dallo yacht del suo uomo per capriccio, ed è geloso però del cane, dell'artista Melampo, lo uccide e lui la costringe a prendere il suo posto. Un autore come Ennio Flaiano, che era scomparso lo stesso anno e sembrava poi non contento della riduzione di Ferreri, è un autore pungente, grottesco, capace di cogliere gli aspetti paradossali della realtà quotidiana, si sposa veramente benissimo con il cinema di Ferreri. Infatti questo film è tratto dallo scritto di Flaiano, Melampus, che era un nome canino preso in prestito dal Pinocchio di Collodi. Ne esce un quadro consolante, sconsolato sulla solitudine dell'uomo, pieno di un grottesco che non è facilmente interpretabile. Non bisogna interpretare appunto il ruolo di Catherine Deneuve, Cagna, di Marcello Mastroianni, come una semplice questione di misoginia, ma la questione è molto molto più complessa e problematica. E allora, l'udienza alle 1:30 di notte di domenica 12 novembre, La Cagna alle 3:20, quindi a seguire tutti su Rai 3. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, quindi non ci resta che il tempo di salutarvi, darvi appuntamento a sabato prossimo alle 18 qui su Radio 24 per La Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è.